mia professione è terza bolognese. Con le ricette, i codici affollo la prigione e spopolo il paese. Io sono Balanzone, ma da buon Balanzone. Chiedetele al governo. Arlecchino! Col pubblico che servo, si signori, ho molti e vari punti di contatto. Primo, che come il mio vestito è fatto, sinna vedute di tutti i colori, ma quel che forse a lui più m'avvicina è il lazzo originale, la fischiatina. Colombina! Colombina!